Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah, come stai? Sto molto bene e sto riflettendo su questa grande emozione che abbiamo provato tutti fino a questo momento partecipando a questa iniziativa straordinaria e unica, Radio per l'Italia. Mauro, tu come l'hai vissuta da lì? Ma guarda, io qui in studio, ma forse è stato un bene che tu fossi collegata da casa perché io ho cantato a squarciagola qua in studio, ma penso che molti degli ascoltatori abbiano fatto la stessa cosa, però ero qui da solo e quindi non ho inflitto nulla ad alcuno. Ah no, invece Carmelo Lauricella e Claudia Schiattone, che oggi dall'altra parte del vetro, appunto, badante di prossimità Claudia Schiattone, badante da remoto come sempre Marco Lombardo, Carmelo Lauricella in regia, ecco, loro sì, cara Deborah, hanno subito la mia ugola, che era abbastanza scatenata, devo dire, in particolare su azzurro, non so perché oggi mi aveva preso bene azzurro. Guarda, in realtà mi sembrava che tu cantassi in maniera molto più partecipata Lucio Battisti, però vabbè, non importa, l'importante è che tutti gli ascoltatori abbiano potuto partecipare con noi e con tutte le radio d'Italia a questa grande iniziativa che ci ha visto tutti coinvolti insieme, Radio per l'Italia, per l'appunto, un'iniziativa unica che ha voluto dare, se vogliamo, ancora più forza a tutti gli italiani e all'Italia che deve andare avanti unita in questo momento di grandissimo impegno emotivo, oltre che, come dire, fisico e concreto per fronteggiare questo virus maledetto che speriamo di debellarci al più presto. Vedo ancora un periodo molto lungo di come dire, partecipazione obbligata per tutti noi, ma speriamo appunto di potercela fare. E è già intervenuto il governo ultimamente con il Cura Italia e noi anche su questo dobbiamo andare avanti con il nostro impegno, Mauro, giusto? Ma guarda, io il Cura Italia oramai lo porto sempre con me, anzi lo mostro anche a chi ci segue sulla pagina Facebook, lo favorisco alle telecamere che ci riprendono, pagina Facebook di Due di Denari. Come vedete il Cura Italia, che poi si chiama decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, ecco, io lo porto sempre con me e ogni tanto lo leggo, lo sfoglio, così anche in altri momenti della giornata. Lo apro a caso e cerco una disposizione che possa esserci utile in qualche modo. Senti, io e vorrei infatti salutare. È quello che abbiamo fatto oggi, sì, dimmi. No, dicevo, vorrei salutare anche tutti gli altri colleghi delle altre radio, non perché abbia questo Bravo. Afflato di rinunciare alla concorrenza, ma perché capisco che tutti stiamo facendo il massimo per la nostra parte, chiunque nel suo, noi appunto anche qui nel nostro piccolo a Due di Denari cerchiamo di tenerci al passo, di chiarire i vostri dubbi, le cose che ci chiedete chiamando all'800 24 0024, mandando sms whatsapp al 349 238 6666, mandandoci email a duedidenari@radio24.it. Tutto questo, insomma, cerchiamo di tenere botta, cerchiamo di veramente tenerci uniti in questa circostanza così, dico solo, inedita, non voglio usare altri aggettivi. Deborah. Sì, no, volevo, guarda, completare allora questo tuo ragionamento, se mi consenti, perché mi hai fatto fare un tuffo nel passato. Volevo salutare anche tutti i colleghi delle emittenti locali che magari in questi giorni, proprio per la loro prossimità sul territorio e su alcuni territori che stanno vivendo questa emergenza in maniera quasi drammatica, se non totalmente drammatica, sono ancora più sul campo a raccontare anche le storie del territorio. E siccome io vengo dalle emittenti locali, vengo da un'emittente locale, in termini, diciamo, di storia professionale, mi piace essere vicina anche ai colleghi impegnati in questo mondo, in questo momento. Bene. Dopo tutto ciò premesso, spegniamo un pochino questa emozione. Allora, tutto ciò premesso, lo so che vuoi fare subito il giornale radio del risparmio. Abbiamo tutto il tempo, ma vuoi raccontare agli ascoltatori di che cosa ci occupiamo oggi? Ah, ma oggi visto che ce l'hanno tanto richiesto questo argomento. Guarda, è un grande tema. Io posso già dire, però, è un tema che ci terrà veramente occupati, che come direbbe il poeta, tra il sì e il no nel capo ci tenciona, perché si parla di affitti. Che dobbiamo fare, specialmente gli studenti fuori sede? Ci avete scritto in tanti studenti e genitori di studenti. Ma che facciamo se non posso, l'università è chiusa? Io mica ci vado là dove c'è l'università, eppure devo continuare a pagare l'affitto. Che succede? E anche per, diciamo, chi è invece inquilino, così semplice, ci sono provvidenze, non ci sono provvidenze? Allora cerchiamo di mettere, ma soprattutto se sono un commerciante che utilizza come dire un edificio, un immobile e paga l'affitto per esercitare la propria attività professionale, lì queste sì che sono delle persone in grandi difficoltà, perché in genere poi gli affitti non è che siano poca cosa a livello mensile, no? E specialmente per gli immobili commerciali. Allora tutto questo noi lo andremo ad esplorare, ripeto, siamo con un decreto legge che ha pochi giorni di vita, quindi stiamo tutti cercando anche di decifrarne la portata. Spesso non abbiamo istruzioni applicative, non ne abbiamo ancora, quindi piano piano e davvero insieme a voi, e anche grazie alle vostre domande, alle vostre sollecitazioni, cerchiamo di fare luce. Vi segnalo, posso segnalare extra ordinem due iniziative che abbiamo in campo con il Sole 24 Ore, Deborah? Ma ci mancherebbe, anche perché so che di una di queste iniziative tu sei stato testé, come si chiama, moderatore, coordinatore? Sì, amministratore. Allora cominciamo da questa. Sul sito del Sole 24 Ore, se digitate www.ilsole24ore.com/, cioè la sbarretta, forum coronavirus, lì trovate il nostro forum dell'esperto risponde, ci sono i nostri esperti che rispondono alle domande che potete porgli in materia di fisco, di lavoro, di giustizia, di diritto, economia, insomma tutte le questioni applicative concrete più nel tema appunto del Sole 24 Ore, nei temi abituali del Sole 24 Ore. Vi ripeto, l'indirizzo è gratis, basta registrarsi per mandare le domande e consultare soprattutto tra un po' le risposte. Siamo partiti solo da un'ora, quindi dateci il tempo di cominciare a rispondere. Indirizzo www.ilsole24ore.com/forum coronavirus. Questa prima iniziativa. Seconda iniziativa, oggi in edicola con il Sole 24 Ore, nuova guida sul coronavirus, le misure del governo e anche, soprattutto mi fa piacere dirlo, le risposte degli esperti a Obiettivo Salute, l'edizione straordinaria di Obiettivo Salute che va in onda appena prima del nostro programma, dalle 10.30 alle 11 tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Deborah, ti passo la palla. Io la passerei alla regina, alla regia per mandare in onda la sigla del nostro GRR. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Allora, sono tutti pronti anche all'INPS, caro Mauro, per sì, dare attuazione a tutte le misure del decreto Cura Italia, con tutte le misure di cui parlavi peraltro poco fa, che il governo ha varato in termini di iniziative di ammortizzatori sociali, misure di sostegno al reddito, congedi parentali e tutto lo sforzo economico, iniziative di sostegno alle imprese in difficoltà. In questa fase l'INPS si troverà a movimentare e a gestire qualcosa come 10 miliardi di euro in poche settimane per 11 milioni di utenti fra cassa integrazione, come dicevamo, ed altri strumenti di sostegno al reddito, ed è uno sforzo più grande di quello che lo scorso anno ha visto impegnata l'INPS sul reddito di cittadinanza e quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti, per cui ieri l'INPS ha mandato proprio divulgato un comunicato nel quale voleva ricordare questo enorme impegno che si troverà ad affrontare, non dico tanto nelle prossime settimane, ma direi proprio in questi giorni. Non c'è nessun click day, anche l'INPS lo ha ribadito, come finestra dentro la quale si possono fare domanda di presentazione di tutte queste prestazioni. Avremo, dice l'INPS, domande aperte a tutti ed un giorno di inizio con un click. Purtroppo c'è stato, sottolinea, un grande fraintendimento su questa formula e quindi l'INPS si dice impegnata a spiegare meglio a tutti gli utenti esattamente come avverranno queste procedure di richiesta di ammortizzatori e strumenti di sostegno al reddito. Peraltro l'INPS ha anche ricordato che il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo e già da oggi l'istituto registra circa 100.000 richieste di congedo con periodi dal 5 marzo. Quindi ci sembrava appunto interessante sottolineare tutto questo. Ribadisco quello che sto dicendo da qualche giorno, Mauro, comunque abbiamo tutti un pochino di pazienza. Se si va in questo momento sul sito dell'INPS e magari non si riesce ad accedere alle informazioni che ci servono per il nostro caso particolare. Aspettiamo qualche ora, magari rinviamo a domani o a lunedì, e sicuramente troveremo risposta a tutti i nostri quesiti personali. Ben detto, Deborah. Allora ripeto, perché la cosa è stata molto discussa, specialmente nella giornata di ieri, sono rimbalzate indiscrezioni, poi smentite, eccetera. Non c'è un click day per prenotarsi alle varie prestazioni, dai 600 euro per i lavoratori autonomi ad altri tipi di prestazioni. Sì. Si comincerà da un certo giorno. Soprattutto su questo, che dici Mauro, soprattutto su questo c'era stato, credo, il fraintendimento sulle indennità per le partite IVA e per le persone, appunto, i lavoratori autonomi che potranno avere questi 600 euro, e già si era detto che c'erano delle risorse limitate per questo, invece pare che non sia così, insomma. Esattamente, allora ci sarà un giorno di inizio ovviamente, ma non è che chi prima arriva alloggia e gli altri invece non troveranno nulla, perché il governo ha anche garantito che si andrà ad assegnare fino ad esaurimento delle risorse, e esaurimento delle risorse si metteranno altre risorse, quindi c'è uno sforzo veramente eccezionale, nel senso mai visto prima, per poter garantire sostegno a tutti quelli che ne hanno bisogno. Qualcuno mi chiede, Deborah, gli agenti di commercio, allora vi posso dire così, che stiamo aspettando le indicazioni dell'INPS, però secondo il nostro esperto di valore mondiale Enzo De Fusco sarebbero compresi tra coloro che sono destinatari del sostegno. Io ve la butto lì, restiamo però in attesa delle istruzioni ufficiali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Cosa... Ah, peraltro, a proposito di istruzioni, vedo che anche la tua amata Agenzia delle Entrate si è messa a disposizione con dei vademecum con linguaggio semplice. Addirittura sul proprio sito internet avrebbe pubblicato già al momento 14 schede per permettere a tutti i contribuenti di orientarsi in maniera agevole, si spera, nella parte fiscale della norma, per cui anche l'Agenzia delle Entrate fa questo sforzo di comunicazione, visto che generalmente non è proprio chiara nella comunicazione che deve dare, ma non per colpa sua, perché deve tradurre dei linguaggi generalmente abbastanza astrusi, che prima passano al setaccio del Sole 24 Ore di Norme e Tributi, no? Per la loro interpretazione, esatto. E poi appunto arrivano i contribuenti. Ma anche l'Agenzia delle Entrate ha voluto rendere quanto più comprensibile possibile tutta la norma fiscale complicata contenuta nel decreto Cura Italia, 14 moduli che spiegano in maniera chiara, con un linguaggio semplice e di immediata intuizione, i diversi aspetti di impatto tributario contenuti nel provvedimento normativo. No. Lo sto anche mostrando infatti a tutti coloro che ci seguono dal Facebook e anche dallo YouTube, ad esempio se seguono il canale di Radio 24 possono vedere in video anche la mia persona, non che sia un grande spettacolo, ma così può essere un diversivo di questi tempi. Cara Deborah... Vabbè, potrei sempre coprirti la faccia con la mascherina che già indossi nel caso in cui qualche ascoltatore ritenga... Sempre pronto per diminuire anche l'impatto estetico, come dire, la pressione estetica sugli ascoltatori, che in questo caso diventano spettatori. Hai un'ultima notizia da segnalarmi? Guarda, mi piaceva segnalare questa iniziativa che stanno mettendo in campo tutti quei servizi che conosciamo molto bene, le aziende di gestione di appartamenti per affitti in breve. Noi nei giorni scorsi avevamo segnalato questa iniziativa che si chiama State a casa nostra, in cui 6 delle principali aziende italiane di gestione di appartamenti per affitti a breve termine appunto avevano subito organizzato per mettere a disposizione di medici e infermieri che stanno raggiungendo le zone lombarde in grandissima difficoltà, e hanno messo appunto a disposizione molti appartamenti per consentire loro appunto di rendersi anche subito operativi trovando un alloggio in termini rapidi. A questa iniziativa si è aggiunta anche Airbnb e ha lanciato mercoledì l'iniziativa Airbnb per medici ed infermieri. Segnalo solo che se si è medico o infermiere che ha se un medico o un infermiere che hanno bisogno sentono questo annuncio, possono andare sul sito di Airbnb, compilare un format dove possono appunto segnalare che hanno bisogno e hanno questa necessità. Dall'altra parte c'è anche la possibilità per chi ha un appartamento da rendere disponibile di compilare la parte sempre su Airbnb appunto in cui si rende disponibile evidentemente un alloggio, per cui due parti diverse da compilare, sia se si tratti di un medico infermiere che ha appunto necessità, dall'altra parte la persona che ha un alloggio disponibile può rendere disponibile appunto questa informazione. Scusate se pasticcio un po' con l'informazione, ma siamo sempre, come dire, anche noi un po' sul pezzo in termini emotivi di queste notizie, quindi a volte volte ci emozioniamo un po' anche nel darle, Mauro. Beh, meno male, verrebbe da dire, Deborah, altrimenti vorrebbe dire che siamo oramai assuefatti a questa situazione. Anche solo Affitti a Brescia e a Lecco mette gli appartamenti a disposizione, quindi perfetto. Airbnb, principali aziende italiane di gestione di appartamenti per affitti a breve termine, Solo Affitti a Brescia e a Lecco, insomma, ci sono diverse iniziative per fornire appartamenti e locazioni gratuite per medici e infermieri, per il personale sanitario che è impegnato in primissima linea contro questa emergenza. E adesso allora facciamo così, Deborah, presentiamo intanto il nostro ospite, perché è in attesa già da qualche minuto, e allora mi fa piacere dare il benvenuto a Due di Denari a Gabriele Bruyère, presidente dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, lei stia in campana, perché abbiamo moltissime domande ovviamente sugli affitti, vanno pagati, non vanno pagati, c'è qualche aiuto per gli inquilini, qualche aiuto per i proprietari, insomma ne avremo davvero per non annoiarci nella prossima mezz'ora, però prima abbiamo due appuntamenti, Deborah. L'uno è il Dillo a Due di Denari e poi rientriamo, perché vorrei sapere oggi come vanno le tue amiche borse, che in questi giorni ci danno un pochino di pensieri. Regia, guarda, per favore. Dimmi, oggi Deborah. Oggi puoi tirare un sospiro di sollievo. Ah, meno male. Allora Dillo a Due di Denari adesso. Dillo a Due di Denari. Sono un piccolo imprenditore che ha assunto 3 dipendenti il 2 di marzo, 40 ore settimanali come ristorante. Non posso partecipare alla cassa integrazione in deroga, perché vale soltanto per tutti quanti quei dipendenti che erano in forza dal 23 di febbraio. Non posso licenziarli, perché adesso c'è il divieto per 60 giorni di licenziamento, e dico anche giustamente, però trovo totalmente incomprensibile il fatto che abbiano messo la cassa integrazione in deroga dal 23 e non dal 12 di marzo, quando è il giorno in cui il governo ha deciso di chiudere ad esempio tutti i ristoranti, tutti i pub. Tutte le aziende che hanno assunto dal 24 di febbraio al 12 di marzo non possono mettere i propri dipendenti in cassa integrazione in deroga. Io, avendo uno stabilimento balneare che fa anche ristorazione, come posso permettermi di pagare i miei dipendenti se non lavoro? Allora, questi sono degli aspetti che potrebbero anche essere corretti nella conversione in legge del decreto legge numero 18, quindi o per via interpretativa, magari con le istruzioni dell'INPS, o per altra via, potremmo correggere, integrare quanto segnala questo ascoltatore. Deborah, io ricorderei i numeri di telefono per chiamarci: 800240024 il numero verde per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp. E a questo punto sono le 11:29 minuti 50 secondi, io direi che è l'ora delle borse. Rosciani, Meazza, portano la borsa alla piazza. Di denari. Ma questo lamentela sui denari che lo Stato dovrebbe dare alle partite IVA. Tutte le partite IVA sono tutti pidocchiosi. Siamo tutti pidocchiosi. Io lì 600 euro ho detto, li donerò. Ma chi lavora? Cioè, non c'ha un soldo da parte. Cos'è? Siete tutti spendaccioni. Ma lasciate passare almeno un mese, vediamo un po' che cavolo esce fuori da sta storia. Avete qualche soldo da parte? Cambate adesso. Vogliete 600 euro dallo Stato? 1000 euro? Che farete con questi 1000 euro? Cambierete posizione? È un invito alla solidarietà, così, un pochino brutale magari, però insomma è un pochino quello che aveva detto anche in altri modi, certo, il ministro Gualtieri, che aveva detto: beh, però se potete rispettare la scadenza fiscale, per favore rispettatela, perché in questo momento diventa appunto quasi un atto di solidarietà. Allora, non voglio far attendere oltre, cara Deborah, il nostro ospite esperto di valore planetario, come sempre, Gabriele Bruyère, presidente dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. Presidente, facciamo chiarezza. Gli affitti dei privati e gli affitti delle locazioni commerciali non sono sospesi in virtù del coronavirus. È no. Così? Benissimo. No, allora, assolutamente no. tra l'altro non possono essere sospesi, è sospeso il mese di, c'è un accredito da parte dello Stato e lo Stato è venuto incontro ovviamente a coloro che hanno delle situazioni molto particolari, sono tutti gli alloggi di C1, cioè i commercianti e i bar che sono chiusi normalmente, e quindi è venuto incontro dicendo ti do uno sgravio fiscale del 60%, solo per il mese di marzo però, questo esatto. È il problema grosso. È l'articolo... Esatto, ed è all'articolo 65 del decreto legge 18, questo lo dico perché è importante avere poi sotto mano per chi deve recarsi dal commercialista, ad esempio, dirgli guardi, hanno detto alla radio, articolo 65, così. Il problema è che non si comprende, ma io penso che si possa aggiustare, che non si comprende perché ovviamente il bonus fiscale mi parte dalla dichiarazione del 2021 e non da adesso, pare che invece sia possibile con l'F24 fare già la compensazione. Quindi alla prima scadenza fiscale utile, quando riprenderanno, utilizzare già in compensazione, ma bisognerà attendere l'Agenzia delle Entrate. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non abbiamo, sicuramente... Deborah. No, scusatemi se interrompo da remoto. Sicuramente è molto importante però segnalare che per tutte le persone che sono state raggiunte da un provvedimento di sfratto per morosità o questo per altre però non lo ragioni, dice, lo dice il 103, non lo dice l'articolo 65, lo dice l'articolo 103 però, diciamo, all'ultimo comma. Sempre però per riferirci a tutte le persone che hanno un contratto d'affitto e che in ogni caso possono in questo momento magari per qualche mese avere un sospiro di sollievo, sfratti sospesi fino al 30 giugno. Non sì, lo dice il problema sono Italia, sfratti sospesi per morosità e per finita locazione ovviamente, tutto sospeso fino al 30 giugno, ma l'esecuzione, attenzione, di questi sfratti, quindi sono tutti gli sfratti pregressi, non sono sfratti nuovi, anche perché ovviamente in questo momento i tribunali non hanno utilità fino al 15 di aprile, perlomeno non c'è attività, quindi sono tutti gli sfratti pregressi prima del mese di marzo del 2020. Quindi, questa è un po' una situazione un po' particolare, ma comprendo, perché se dovessimo fare uno sfratto per morosità e mettere in esecuzione uno sfratto per morosità per un inquilino che abita in quell'alloggio, lo Stato in questo momento non saprebbe dove metterlo, ecco, questa è una problematica enorme, mi rendo conto di questo discorso. Presidente, i proprietari si rendono conto. Presidente Bruyère, qui c'è grandissimo il tema degli studenti fuori sede, perché le famiglie dicono vabbè, ma l'università è chiusa, lo studente è tornato a casa e quindi io perché devo continuare a corrispondere all'affitto di un locale che non utilizzo? Questo non è solo un problema degli studenti, è un problema di tutte le altre categorie che non sono previste nel questa norma del 65, dell'articolo 65. Parliamo per esempio delle palestre, dei professionisti, degli artigiani che non rientrano in questo C1, quindi questo è il problema grosso. Cioè, purtroppo questo io credo sia possibile emendarlo in sede di conversione di questo decreto, però ci sono queste dimenticanze che sono enormi. Noi abbiamo proposto, come addirittura lo Stato, abbiamo fatto due comunicati stampa, abbiamo proposto al governo di dire facciamo mettere d'accordo i proprietari e gli inquilini, noi come associazioni e organizzazioni di categoria dei proprietari maggiormente rappresentative e le organizzazioni degli inquilini possiamo trovare delle sistemazioni con una riduzione di intorno al 40-50% del canone di locazione per l'anno 2020, ovviamente facendo però un discorso che sia un discorso plausibile, e questo noi l'abbiamo proposto, non c'è stato detto niente in questo nel decreto, questo ci dispiace molto, anche perché noi avevamo chiesto addirittura una cedolare secca con una riduzione dal 5-10% al massimo, insomma, quindi non abbiamo avuto queste risposte purtroppo. Però Presidente, detto che la norma non indica nulla in questo senso, non è detto che poi tra le parti non ci si possa venire incontro in qualche maniera. Con che modalità suggerite voi in questo momento, ammettendo che ci si trovi questo d'accordo nel voler condividere? Ecco, assolutamente, ma è meglio metterla nero su bianco. Allora, ma tra l'altro non si potrebbero ridurre comunque i canoni di locazione perché va registrato questo accordo, capisce? Quindi indubbiamente va registrato l'accordo con la riduzione ed indubbiamente questa registrazione va fatta all'Agenzia delle Entrate, non possiamo fare diversamente. Questo accordo è sempre previsto, è sempre possibile, era previsto anche prima. Il problema invece è un accordo che è relativo a quando, però è per quanto tempo, perché purtroppo abbiamo una situazione che non è una situazione riferita al mese di marzo, avremo una situazione che viene proprio procrastinata nel tempo, e quindi noi pensavamo come organizzazione di dire beh, arriviamo fino alla fine dell'anno, facciamo questo accordo fino alla fine dell'anno. Questo è possibile tra i proprietari e gli inquilini, però lei si renda conto che ci sono molti proprietari che vivono di canoni di locazione, e quindi abbiamo delle difficoltà anche da parte dei proprietari. Infatti ce Presidente, l'ha scritto questo ascoltatore, ci abbiamo oramai, niente, è andata via, andata anche la grammatica. Stefano ci ha chiamato da Prato e capita proprio a puntino. Buongiorno Stefano, ci chieda. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere questo, mi sembra, e mi riferisco, premetto, solo alla locazione delle abitazioni, riferisco solo alla locazione dell'abitazione. A mio avviso è stato informato un pochino male, perché si è detto si blocca gli affitti, si dà un qualcosa sugli affitti prima ancora dell'emissione chiaramente della normativa nuova. Però insomma poi mi sembra sia stato un po' dimenticato, mi riferisco all'abitazione, perché ci sono dei contratti che prevedono già dopo 2 mesi di mora la risoluzione, quindi qualcuno era già in mora di 1 mese, che si fa se non paga il secondo? Perché non mi sembra di aver capito che non c'è assolutamente niente che interrompa o faciliti, a parte lo sfratto, ma o faciliti il pagamento, diciamo, da parte dell'inquilino, ma anche da parte del proprietario è in difficoltà, perché se l'inquilino dice sì, sono cassa integrazione, però questo mese non mi pagano, e che si fa? La cessione non si sa bene. Secondo me andrebbe migliorato questo decreto in fase... Ma infatti è quello che ci sta. Grazie Stefano, perché effettivamente coglie i due aspetti del problema, e Bruyère ci stava proprio spiegando che aspettavano anche dei sostegni diversi. Però fermo tutti quanti per un istante, perché il 45esimo, l'arbitro fischia il traffico. Due di denari. Il ministro Gualtieri invita a rispettare le scadenze, ma quando è lo Stato a non rispettare le scadenze, come la mettiamo? L'ascoltatore ha ragione, abbiamo anche segnalato, sai, su Sole 24 Ore ci sono queste così difformità, un pochino più di tempo per noi per le scadenze, 2 anni in più per gli accertamenti fiscali. Vabbè, insomma, i tempi sono quello che sono. Restiamo sugli affitti, che è il tema di oggi. Naturalmente via via, lo sapete, tutti i giorni qui a Due di Denari, Deborah e io cerchiamo di approfondire uno dei tanti aspetti che viene coinvolto dal coronavirus nella nostra vita economica quotidiana, per dir così. Allora, riparto dal presidente Gabriele Bruyère, presidente dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari. Giustamente l'ascoltatore lamentava, avremmo voluto qualcosa di più a tutela degli inquilini e anche dei proprietari. Ma quanta speranza avete, Presidente Bruyère, di essere ascoltati magari da qualche forza politica in Parlamento per portare avanti richieste di miglioramento, di estensione delle misure? Buongiorno, subito dopo l'emissione del decreto, la pubblicazione del decreto, abbiamo rifatto un comunicato stampa dove riprendevamo queste stesse cose. È ovvio che è un discorso che verrà fuori sicuramente in sede di conversione del decreto legge, perché questo dovrà essere fatto. Tenga presente una cosa, che per legge il canone di locazione, sia ad uso abitazione che ad uso diverso dall'abitazione, non può assolutamente essere sospeso. Questo è il problema enorme. Salvo che l'immobile non sia, per esempio, materialmente inutilizzabile. Ma qui non parliamo di un'inutilizzabilità dell'immobile, parliamo di una situazione contingente esterna, capisce? Nella quale lo Stato purtroppo non è intervenuto come avrebbe dovuto, secondo noi, intervenire. E giustamente l'ascoltatore ha detto, noi non pensavamo di avere anche noi dei criteri leggermente diversi, perlomeno in questo momento lo Stato qui non è intervenuto, è intervenuto parzialmente solo su quello che riguarda le locazioni degli immobili ad uso C1, quindi dei negozi che sono stati chiusi, però ribadisco, anche le altre attività sono chiuse. Perché certo. se non si può girare, se non, pensiamo agli avvocati che hanno la sospensione fino al 15 di aprile poi probabilmente, e pensiamo agli sfratti che sono sospesi fino al 30 di giugno, il che vuol dire che sicuramente anche l'attività dei tribunali verrà portata verso questa data del 30 di giugno. Quindi vuol dire che non ci sono attività in corso anche per i professionisti, e altrettanto per quanto riguarda gli altri professionisti, altrettanto per quanto riguarda, ma per esempio la cosa più sciocca di questo mondo, ma che, di cui non hanno assolutamente tenuto conto, le palestre. Pensiamo a quanta gente non può andare in palestra, e le palestre devono continuare a pagare gli affitti, a salvo che non ci sia poi quel famoso tipo di problematica che sta venendo fuori, quella dell'impossibilità parziale sopravvenuta. Sì, questo è il famoso articolo, famoso tra noi appassionati della Gazzetta Ufficiale, famoso articolo 91. Qui vale la pena spenderci due parole, Presidente, se riusciamo a essere così molto molto, a banalizzarlo un pochino. Però il problema dell'impossibilità parziale è un problema molto serio, molto molto delicato, anche perché bisogna valutarlo di caso in caso. Non è possibile fare un discorso generalizzato sull'impossibilità sopravvenuta parziale, e questo però è una problematica. L'articolo è il 1464, capisci? È una disposizione che esiste e che non è una disposizione locativa, è una disposizione che riguarda tutti i contratti. Sì, è una sorta di, adesso lo dico malamente e mi perdoneranno tutti coloro che sanno di diritto e che sono all'ascolto, sostanzialmente si dice: vabbè, ma se c'è una impossibilità a onorare la scadenza, sono sospese penali, caparre, termini per adempiere le obbligazioni. Questa è la formulazione. Qualcuno dice: allora potremmo far rientrare lì anche gli affitti, però non c'è lì un'impossibilità sopravvenuta a pagare in qualche modo. Bravissimo, come le ha detto l'ascoltatore, però ci sono i contratti di locazione che prevedono un altro tipo di normativa, cioè che io posso sospendere solamente, per esempio in quel caso, per 2 mesi, dopodiché il contratto si intende risoluto di diritto. Questa è la problematica, cioè andiamo a contrastare le norme di legge con quello che sono gli accordi privati e con quello che sono le norme sulla locazione, che derivano dall'altro dalla vecchia legge 392 del 78. Le butto lì una soluzione da praticone: ma se un proprietario dicesse vabbè, mi prendo la caparra che avevi versato all'ingresso, esatto, e poi me la ricostituirai quando è finita l'emergenza? Tenete presente che le caparre nei contratti c'è scritto non possono mai essere utilizzate a titolo di canone di locazione. È vero. Estrema ratio, si può anche arrivare a questo. Però siamo sempre, come diceva la signora prima, siamo sempre sotto un discorso di accordo tra proprietario ed inquilino. Tra privati e di buon senso. Posso aggiungere anche un altro aspetto, che questa storia della caparra, dell'anticipo, sono le modalità molto, passatemi il termine, perché questa è stata anche un'esperienza personale di quando sono arrivata a Milano tanti anni fa. È una modalità molto nordica, ci sono tante altre zone d'Italia in cui si stipula un contratto d'affitto all'interno del quale la parola caparra, anticipo non vengono neanche menzionate, non esistono. Certo. Vero? No, Presidente, anche così. Mauro, sentiamo Francesco da Como? Sì, perché pone un quesito che pongono molti altri ascoltatori. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, volevo segnalarvi una questione che è sfuggita ai più e la cosa meraviglia ancora di più, scusate il gioco di parole, perché è stato oggetto di interrogazioni parlamentari da parte dell'attuale esecutivo 2 anni fa, ovvero l'imposizione da parte della maggior parte dei centri commerciali che operano in Italia di contratti simulati di affitto di ramo d'azienda, di inesistenti rami d'azienda, per eludere le tutele che la legge sulla locazione commerciale, la 39278 giusto appunto, garantisce agli affittuari. Ebbene, questo fa sì che adesso non si possa far valere il credito d'imposta che è stato stabilito dal decreto legge Cura Italia. Questo vuole dirci, Francesco? Cornuti e mazziati, scusi il termine. Ho segnalato personalmente la questione al vice presidente della Commissione del Lavoro alla Camera, in quanto le interrogazioni parlamentari sull'argomento erano state fatte dall'onorevole Cominardi, già sottosegretario al Ministero del Lavoro, e al presidente Girotto della Commissione Commercio del Senato, che parimenti ebbe a occuparsi della questione. Sì. Da allora sono trascorsi 2 anni, nessuno ha fatto nulla per censurare questo tipo di contratti, che per di più causano un danno miliardario all'INPS, poiché tutti impongono alla restituzione dei rami d'azienda, dei negozi, licenziamenti illeciti del personale che ci presta opera, e stiamo parlando di 500.000 di lavoratori, la fonte è il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali che trovate online. La cosa è paradossale perché vengono escluse circa 30-40 mila esercenti dei benefici che il legislatore voleva porre a rimedio del, chiaramente, danni causati al coronavirus. Grazie, quindi, grazie Francesco, perché devo dire lei è stato molto puntuale e molto chiaro. Quindi sostanzialmente l'utilizzo, per, diciamo così, Presidente Bruyère, disinvolto di una formulazione anziché quella normale dell'allocazione commerciale, in questo momento, oltre ad essere elusivo per certi versi, come ci ha ricordato Francesco, è anche impeditivo, cioè diventa un impedimento per utilizzare il credito d'imposta che invece spetta, secondo il decreto legge ultimo Cura Italia, a chi ha in affitto un negozio, chi è in negozio con un affitto. Tenga presente che l'affitto di azienda però non riguarda le canoni di locazione, l'affitto di azienda riguarda chi ha l'azienda e che va a affittare quel ramo di azienda o l'azienda stessa, e riguarda quindi un altro tipo di normativa. Noi qua non ha riferimento l'affitto di azienda nei confronti di quello che potrebbe essere, di quello che è anzi il locatore, perché il contratto rimane sempre lo stesso, salvo che non venga fatto un nuovo contratto con il locatore. Così come la cessione del contratto di locazione, capisce? Nell'affitto di azienda non c'è la cessione del contratto di locazione, è il titolare dell'azienda che affitta un ramo di quell'azienda. Il costui subentra ovviamente nel contratto di locazione. Si discute se ci vuole ovviamente il parere favorevole da parte del proprietario, perché nella 392 se non c'è il parere favorevole da parte del proprietario ovviamente non ci può essere l'affitto di azienda. Questo è il discorso. Mauro, c'è un interessante caso che ci sottopone un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666, e questo vorrei leggerlo, questo messaggio, un po' come pretesto anche per lanciare, volendo, la trasmissione di lunedì, perché un po' si legano il tema che affrontiamo oggi con quello che affronteremo lunedì. Luca ci scrive: ho comunicato la risoluzione del contratto d'affitto in quanto devo acquistare una nuova abitazione e ho la situazione bloccata, perché mi trovo bloccato con il mutuo e il rogito, e dovendo fare prossimamente, che devo fare prossimamente, devo anche lasciare l'abitazione in affitto. Caro Luca, allora io intanto spero che la proprietà dell'abitazione che deve lasciare comprenda la sua situazione, così come ci si verrà incontro anche per quello che riguarda la stipula del la stipula appunto dell'atto di compravendita con notaio e banca. Penso che chissà, Mauro, in quante persone si trovino nella stessa situazione di Luca. Sul tema dei rogiti bloccati noi andremo lunedì prossimo con il mondo appunto dei notai per capire come stanno gestendo queste situazioni. Ci sono tante altre, sono dei pubblici ufficiali, devono portare avanti tutta la loro attività come se fosse ordinaria amministrazione, ma ci rendiamo conto che in questa situazione straordinaria c'è ben poco di ordinario, no Mauro? Per cui è magari così. Se Luca vuole scriverci lunedì o chiamarci anche, registreremo se vuole il suo contributo, come dirlo, a due di denari, e quindi lo sottoporremo immediatamente ai notai che saranno a nostra disposizione nella trasmissione di lunedì prossimo. Presidente Bruyère, negli ultimi 30 secondi generalizziamo: affitti in scadenza, cioè inquilini che avevano già detto me ne sto andando, ma adesso non se ne vanno più perché magari anche solo non si possono banalmente spostare. Questo è un discorso ovviamente serio, è chiaro che l'inquilino non potrà andarsene entro i 6 mesi di preavviso se la situazione rimane quella attuale, e non potrà ovviamente dare corso a quello che è quel contratto nuovo di compravendita o di locazione proprio in questa situazione attuale. Tenga presente che questi termini non sono in teoria sospesi, non è entrato dentro proprio il governo sotto questo tipo di problematica, ed è una delle cose che io spero vengano risolte in sede, ovviamente con gli emendamenti, in sede di approvazione del decreto, perché questa abbiamo tutti questi tipi di carenze che nell'emergenza nell'emergenza no, però abbiamo 60 giorni di tempo per poter emendare proprio a tutte queste difficoltà e tutti questi difetti di questo tutti i particolari sul vostro sito www.uppi.it. cara Debora, grazie e buon grazie. Fine settimana, buon chiusi in casa, chiusa in casa, mi raccomando, come tutti noi ci risentiamo lunedì, grazie, buona giornata.